faccio qua il bagno, che sono tranquillo. Almeno quando voi entri la mattina, come è successo a me, ti ricordi contro di San Giovanni. Entravo in barca, c'era alle 8:30, male, liscio. Messo mezzogiorno da una, ero il più asciutto che era dentro quella barca. Veramente mi stavo cagando addosso, cazzo. Ha aiutato se poco oggi. Si è rimata la barca, sono fregato, eravamo in 5, eravamo, quando c'erano i tasotti, che me lo ricordo ancora io. E quanti anni è? Un bel di anni, quando c'erano i tasotti da Portamona, c'è arrivato lo scioffè, la vino pasto, c'aveva la casetta, tutto, un meglio c'aveva la casetta lì, ma durava addirittura da lì da Portamona. Io facevo un campeggio, c'era un quarto pezzo. Dopo me ne sono andato a sesso, mi sono fatto la cabina. Devo sapere niente, finché non me l'hanno slasciata. Per cui, tal giorno io sono entrato più in acqua. Non ci vado nemmeno a mare, non mi piace assolutamente. Magari posso uscire così a farmi una mangiata, però a toccare l'acqua alle mie persone. Altri tempi erano là, per cui lasciamo largo ai giovani, fai fra. Marco fa polpi lì la sera, hai capito? Va a pescare, polpi, avanne, carciofi, fa acqua sparito, cazzo. No, dal computer stavo facendo cosa dal computer, non ti ho sentito, poi sono entrato in cucina a farmi un caffè. E lì alla rotonda abbiamo i boi per me. Non vi sono quando andavamo con mia moglie, gente prendendone, ma prendendone a vero mi poi. Comunque lì bisogna andare qualcosa, mi mettere a cercare anelli, quello che è. Ci facciamo un giro verso le 8:30 di sera, quando non ci manca un cane, una bella passeggiata in due, una da parte, una dall'altra, a cercare oro e argento. Mi piace andare al mare. Adesso devo organizzare pure io. Pure sono tutto il giorno a casa, non sono uscito manco un mese di piede fuori. No, non mi interessa. Non li hai conosciuto le cocchie alle scuole a Plaza Mona? Ma adesso non ce n'è più mio marito, quella roba lì. Oramai, ma non va con Bruno Risecchi, non se lo dirigi i costi. E allora, pure non ce la faccio sparire. Però che ti dicevo io ce n'erano, cazzo, e va bene, c'è Bruno, cazzo. E bene, mangiatemi la Giovanna. E poi facciamo un campeggio lì per quando eravamo quasi tutti i giorni un po' di cose e ce le cucinavamo. Grazie. Avevamo anche presa a più i ghivi. Non c'è più niente, hanno distrutto tutto, oramai. E allora, aspetta. E vabbè. Adesso non lo riconosco più, Plattamona, boh. La prima, da quegli anni che c'avevamo le cabine, adesso è tutto diverso, Sembrava un lettore tutto bello pulito, tranquillo, che un mamò. Invece prima, tutte le cabine, cazzo, che facevano schifo. Iaia, ma cari dai. Andiamo, vai a tu. Però ce l'ha avuto. Molti ce l'avevano la cabina lì. Ed erano contenti. Tutto diverso adesso. Però si sta bene. Io la verità, quando sono libero, ogni tanto scendo pure, mi voglio. C'è soprattutto la sera, c'è Tore lì, che fa i panini, le cose, e porto una bella magnata, faccio, mi mangio il panino, le cose, poi me ne salgo. Oppure vado anche a mattina presto qualche volta, di una morte faro. Stavo dicendo, ma tu il pane dove lo prendi, da Nardo? Il pane? Da quello di Arrosello. Qualche volta. È un bel buono quel pane, lo prendo anche io lì. O se no compro un cesaraccio. Se è Nardo lo vado a dire un pane. Lo so, ci devo passare perché è buono, è caggiugaggio. Fare cesaraccio sempre, per cui è meno croccante, le prendo. A me mi piace come il cesaraccio. Capita qualche volta parlo un P, però non è più come quello di cesaraccio. Mi piace quello di cesaraccio, mi pare, perché per me va bene su quello di Cesaraccio. Ma sa di Risodonardo, anche su Cesaraccio. Beh, abbiamo assaggiato parecchio, per cui, buttate quello di Cesaraccio, io siamo tutti di Cavrati. Poi ce ne sono che ne fanno veramente buoni, veramente. Ma carichi bambina, non posso andare per esempio a Via Rosella a Piave Rubale, tu basti no che Cesaraccio sta con tranquillo Matteo. Ho capito, è l'altro in Via Rosella e poi li parcheggiano a Ciappi ed è un casino. Devi mettere la macchina al mercato. Ma questo è malissimo, è la buona. Cazzo, che Ciappi di Matteo si fare, mi viene male e mi nasce. Cazzo, grazie di poco, vedi un quarto d'ora, cazzo, andai a tornare. Per cui sono tranquillo. Uno che in giro, vabbè, è passato, entra si fila e parla. Ma a me proprio andare a pigliare il pane a Via Rosera non mi conviene, capito? Oh, grazie. No, che tu baci sono tranquillo. E tu a te? Io ce l'ho qua a Carbonate, Cesaraccio, vicino alla pizzeria, quindi sono scendendo con la metà pelle, prendermi i panini, le paste, perché vendere anche le paste. Ci ha portato a te, sì, così, l'importante che si mangia. Quando poi, quando vuoi andare, vuoi camminare tranquillo, andando in mare bianco, si ubbiglia. Capito, bravo, me la faccenda. Magari a te ti piace quello, esci e vai al Via Rosello e te lo compri. Magari mi sei stai passando e te l'ho preso passato stesso. Come lo lavico? E quindi ci passo ogni tanto. Quando sono in zona ci passo a trovarlo sempre. Sì, ma fate dei ribizzi che sono la fine del mondo, Un bel buono, no? E poi è pulito, è una persona in gamba. Le pizzette di Rospin, quelle di... che sono qui in Via Verona, quello dovete assaggiare la mattina, già sono poco buone già. Via Verona, e dove Via Verona? Via Milano, scendendo prima delle valli in Via Rizzetto, al lago Via Rizzetto, c'è il negozio di Rospin, tu vai lì e la mattina ci sono pizzette, sono belle e calde, sono già pronte per le puoi anche mangiare subito, non so altro. Assolutamente buone, che è una cosa che poi la puoi scaldare anche appena appena nel fornetto, sembra che le appena pronte dal forno. No, quello di Via Rosello è un altro mondo, sono pizze al taglio, si fa e non ha rete sopra. Vabbè, quello è un discorso diverso, mica vado in Via Rosello, io no. Con tutto quel casino che c'è, vado in Via Rosello, cazzo, mi ha detto uno scemo. Poi cazzo con una pistola, cazzo, mi porta via, porta fuori quello che c'ho, cazzo, per una pizza, no, sarà no. Ma va di cazzate, cara che ti tocca, oi, ma lascia perdere. Ma con caro può fare, ma sono due cazzate, no? Non è che ti tocca a te. Sto dicendo, è un casino, tutto buio, cazzo, tutto buio. Sono andato io 3 mesi fa, no, guarda che io ci ho frequentato, vinco subito l'Emanuele, tutte quelle vie a fianco, eccetera, eccetera, che c'erano le amiche, cazzo, andavo, gli facevo l'impianto, eccetera, eccetera, capito? Facevo tutti i giorni, tutti i negozi aperti, con la gente, ma è diventato un mortorio. Ti trovi questi, cazzo, negri, da una parte all'altra, ogni tanto li vedi che si accoltellano, mentre ho subito di Manuel c'erano tutti in mano loro, c'era aperto cazzo come si chiama, il bar, il negozio di frutta e verdure, sono aperto, tutto loro c'hanno in mano, quindi figurati. Via con il bingo. Non ti fa vedere che entrare dentro al circolo, amici. C'è anche il circolo di tu, non ti fanno manco entrare. Non lo vogliono italiani, hanno detto i geniali. Tu sei italiano, no, tu qua non puoi entrare, hai capito? A uno gli hanno detto. Quindi, ma come il mondo sta più lavorando? Perché il mondo ha chiuso. Tu immagini, il mondo ha lavorato un sacco di tempo, mi sarà minimo più di 20 anni che lavorava lì come circolo. Ci andavano i romeni, ma sono sempre comprati bene. Adesso da qua sono questi i geniali comandano loro. Poi subito l'Emanuele, la metà è di geniali, l'altra metà è di italiani. A partire dalla piazza Mazzutti in su è tutta roba italiana, la piazza Mazzutti in giù è tutta roba nigeriana. Quindi non ti puoi manco tu devi stare molto attento, tutto buio, te ne passano questi, ti chiedono a vedere se ti serve qualche cosa, qualche canna, allora vai. Sempre con quegli a ciappare, da poi a ciappare il rosoio sempre. Perché la borsa che era appena appena rompendo di yo-yo, ha detto ma ce la fate per tutto quando a schiaffi, gli ho detto. Ti metto mano oggi, non mi tu gli ho detto, non mi rompere mai, gli ho detto, aiù, vai dinni. Ormai è così. Finché, guarda, speriamo che facciano un sindaco che si rampi a voi a tutti, da lì da Corso Vito Emanuele ci rimettono gli italiani. E quelli di cosa, quelli, tutti quegli ingegneri che ci sono, ce li mette lì in quel capannone a pedalier da vivere tutti, come fanno i cinesi, tutti messi lì da dentro. Infatti c'è il capannone abbandonati, 200-300 persone, li porti da mangiare, ogni giorno li lasci da dentro chiusi. Certo, se passa il PD sarà peggio che mai, perché sono in favore a queste gente qua. Tranquillo al 100%, te lo posso dire. Se da domani basta chi sa niente, sono a favore, lo sai benissimo che sono a favore. Sono a favore a chi sa niente. E quindi siamo un non punto a capo, no. Peggio. Peggio. Ma che m'appigli va? Detto questo io vado a preparare qualcosa da mangiare, va, che adesso un po' lo devo svegliare. Sì, d'accordo, ok, non c'è problema. Buona cera allora. Purtroppo il sottofonico è diventato così, ma con la luce là, come, prima era sempre piena, adesso non è mai contrario. Non stava più nessuno per quel motivo lì, capito? C'hanno paura lì, se trovano qualcuno di lì che ti fa la loro roba, lascia perdere, non mi è cambiato tutto. Se che ci buttiamo fuori questi qua, se sarebbe vecchio sarà morto. Il discorso è quello, bisogna cambiare tutta la prassi, bisogna costringere i padroni di queste case, o affitti italiani, o soldi se questi appartamenti. Il discorso è questo. Non è che affitterà italiani, vogliono mettere i neri, ce ne possono mettere in quel cazzo di albergo che devono fare, guarda, se devono ristrutturare, ce li mettono lì, tanto sulla cosa nostra, a me non vogliono fare bene niente. Inchiusi lì con una bella cancellata in modo che non possano fuggire, la parte rallata, le mago lì, come fanno con i cinesi in Cina. Che sono 1200 appartamenti e non possono uscire di casa, le mago lì dentro tipo come le galline. Franco! Ma tu sei? Oh, io sono già. Ah, tu? Beh, me l'ho sentato un attimino. Ma tutti spariti sono? Sono spariti, tutte le mani sono. Vabbè, sono l'ascolto, va. Prepara a mangiare, tu prepara. E io? Dopo devo far mangiare a Gabriele. Come si dice? Anche a me, dai. Devo far mangiare a tutti e due, quindi stavo preparando. Sandoka, su che andiamo? Billy. Briciola. Oi, Billy. E mi sto preparando da mangiare, sto preparando. E stavo lavando i piatti facendo. E fai anche tu, non ti preoccupare, fai. Ok, dai, ce ne sentiamo. Bene, mi senti? Ma sì, altro. Cazzo, se lo sentiamo lui, sai che lo sentiamo. Già andavo, dai, a fondo schiena arrivo. Se sei stato un malattino. Questo qua è il coso, il cobra. Bella, ma la modulazione, tranquilla, chiara. Cappa, dai. Dai, vado a fare questa roba. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Gabriele deve mangiare. Dai, a domani al vicino, vai dalla mania. Attenzione, dice. Vieni avanti già. Ebbene, allora mi sto cucinando, insomma. Cosa ho già che ti fatto con crocente, sì. E perché c'è tutti gli apparecchi accesi che si facevano scaldare? Ho detto, il bambino c'hai a casa. C'è il bambino struccio. Cavagame, quello si vede di quanto? Un pane, un salsiccione, roba così. Però fatto di pollo, capito? Sì, va bene, dai. C'è un po' di atteso, il barbecue acceso, quello portatile, tirati un porcichipi, almeno più sano. Infatti. Allora, magari, ho detto, ti volevo dire se venivi a farti un giro, ma se c'è il bambino cosa fai? C'ho Gabriele, c'ho a casa. Vabbè dai, un altro momento. E volevo scendermi un po' a Placavona a portarmi il cane. Così prende anche un po' d'aria buona lui. C'ha pagato, tutto il giorno ce l'ho, tutto il giorno ce l'ho. Vabbè. Prova a bugia tu. Aspetta che vado a girare, ma è una ramma, ma ascolta. Vado a girare la salsiccione. E che vai prima che ci si bruci. Eccomi qua, dai. Pronto, Arco. Come? Pronto, Sta andando, piano piano sta andando, ma vuoi girare ogni tanto, se no è un casino. Va a cucinare, se si lo devi pungere, che se no non cucinava i treni. Dipende, se è molto grosso è così. Se è fine, no. È un po' pesante, però sai, vabbè che tu hai il pollo già... leggero. No, già leggero, già leggero già. Non lo sapevo che facesse il macinato di pollo. Sì che lo fanno se si c'è il pollo, l'ha mangiato, buon arredo, eh. No, di pollo no, l'ho mangiato di vitello, di maiale, cose, ma di pollo no. Però di quello c'è anche al centro carne. Quello di pollo? Sì, vanno in tutta la garri, Come di modulazione, buona è già. Sì, buona. Meno male, dai. Va bene, anche tu. Ma l'ho fatto rosso, perché mi abbia da luci. Rosso cosa? Ho cambiato l'impostazione. Ah, sei riuscito? Certo che ci riesco, vado a guardare il manuale, già un grip vi riesco. Ah, ce l'hai il manuale? Io vado a guardare su internet. E il blu è più bello, secondo me il blu è migliore. Mi stava prendendo agli occhi, riuscì a non girarlo. Tu pare io ce l'ho il manuale di quella parigia, adesso guarda, se ce l'ho te lo do. E l'ho girato, ecco qua. Gianni, ci sei? Beh, è quasi pronto a mangiare. Io vado là, devo svegliare il bambino, là, ce la sentiamo. Ecco, se vado a vedere se c'è quel manuale. Sì, vai tranquillo, dai, vado a svegliare a Gabriele che devi mangiare. Ok, vai.